Do il benvenuto ad Andrea Santonastaso. Ciao Andrea, bentornato anzi ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, sono contento di tornare. Tutte le volte che posso parlo volentierissimo con voi. Questo sabato, quindi sabato 6 novembre, al Teatro Odeon porterà in scena lo spettacolo Mi chiamo Andrea, faccio fumetti. Che Andrea Pazienza vedremo raccontato su quel palco? Vedremo un Andrea Pazienza attraverso un Andrea Santonastaso o un Andrea Santonastaso attraverso un Andrea Pazienza. Già comincio a generare del mistero. Vedremo quello, credo. Lo vedremo raccontato e disegnato. È uno spettacolo per voce e pennarello, se vuoi dare una definizione a quello che faccio. Nel senso che io recito, racconto la vita di Paz, ma nel frattempo disegno, non con lavagne luminose o quant'altro, ma con una scenografia di fogli bianchi che riempio di disegni fatti lì sul palco col pennarello. Non so quanti gli attori ci sono che fanno le due cose insieme, io insomma ho imparato a farle e le faccio da un po', perché ho girato parecchio con questo spettacolo. E da dove viene l'idea di questo spettacolo appunto così particolare? Viene dalla passione del sottoscritto per Andrea Pazienza, che è una passione che risale, come racconto nello spettacolo, al 1977, quando avevo 10 anni. Quindi adesso fa un po' i conti di quanti anni sono che sono patito di Paz. Viene da quello, dall'amore per Pazienza che è sconfinato, e viene dalla voglia di raccontare Paz a chi lo conosce, ma soprattutto a chi non lo conosce, quindi i giovani, quelli più giovani, quelli un po' meno giovani, insomma, oppure quelli magari della mia età che però Paz non l'hanno approfondito perché pensano che il fumetto sia, o hanno sempre pensato fosse un'arte minore. Invece è un'arte a tutti gli effetti, con la grandissima che merita di essere raccontata. Questo è il motivo per cui mi piace l'idea di raccontare l'arte del fumetto attraverso, credo, uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto in Italia di questo mondo. Infatti proprio questo ti volevo chiedere, se lo spettacolo è dedicato a persone che non conoscono Paz o è un modo per approfondire meglio? Guarda, io di solito quando in questi ultimi anni, in realtà da 11 anni, cioè da quando è nato mio figlio che si chiama Pietro e che ne ha 11 appunto, gli spettacoli sono concepiti in funzione un po' sua, cioè mi piace l'idea di raccontare delle cose che racconterei a mio figlio. Quindi lo spunto è quello, raccontare a mio figlio di un disegnatore di fumetti e di come papà abbia così maturato una passione per lui. Quindi a qualcuno che Paz non lo conosceva. Poi di fatto mi sono reso conto che erano tanti quelli che non lo conoscevano e quindi mi piaceva l'idea di raccontarglielo, spiegarglielo, dirgli che mostro sacro è stato. Poi mi sono reso conto che anche quelli che lo conoscevano ne scoprivano dei lati, della sua grandezza di artista, delle sue enormi capacità di disegnatore, di disegnare, ma soprattutto di raccontare il mondo che lo circondava. E quindi l'ho fatto attraverso di lui, anche per coloro che magari un pochino lo conoscevano. Diciamo che quando si va a pescare nella vita di qualcuno come Paz, che se n'è andato troppo presto per ragioni che hanno a che fare con la droga, l'eroina, eccetera, scopri che la maggior parte di questo pessimo lato del genere umano fa sì che si preferisca approfondire quella parte, no, della vita di qualcuno, che poi non è la parte della vita ma è la morte. Invece io racconto quella parte lì, la racconto pochissimo, preferisco raccontare di quello che ha fatto più che quello che non ha fatto, e quindi lo faccio, ripeto, a chi non lo conosce e a chi lo conosce ma magari non abbastanza bene. Sul palco in scena sarai da solo, ma in realtà questa è una collaborazione tra più persone, quindi ce le puoi raccontare. Siamo una squadra, la squadra è composta da me che recito, da Cristian Poli che scrive, che lo fa anche nello spettacolo nuovo con cui abbiamo debuttato un po' di tempo fa, che racconta la vita di Pertini, lo fa perché Cristian è un bravissimo autore e soprattutto un amico fraterno, e quindi ci capiamo al volo quando vogliamo raccontare delle storie e il modo in cui le vogliamo raccontare. E l'altra parte della squadra è Nicola Bonazzi, che è il regista, anche lui un amico. Prima c'è l'amicizia, poi c'è il lavoro nel nostro caso, siamo una squadra forte da questo punto di vista. Ce ne aggiungo un altro di nomi a questa lista, che è quella di Carlo Corticelli, che è il tecnico. Di solito i tecnici non vengono nominati, ma lui è parte integrante di questo lavoro tutti i modi, quindi insomma siamo una squadra, quando va in scena uno, io sono quello che segna, sono quello che gioisce, le luci della ribalta vengono tutte su di me, ma in realtà io segno se la squadra costruisce l'azione in modo che io possa metterla dentro, diciamo così. Perfetto Andrea, io ti ringrazio e ricordo ancora una volta questo sabato, quindi sabato 6 novembre al Teatro Odeon, sarà in scena con lo spettacolo Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, grazie ancora. Grazie, grazie a tutti, vi aspetto sabato.